Christ. Real name, no gimmicks. Bello fanculo, fanculo tuo, fanculo lo Zodi 105. Tanto quel programma non piace a nessuno, ok? Mazzoli va a Miami ed abbandona i suoi fratelli. A noi cascano i coglioni, fra lui cascano i capelli. Polo Noise torna dopo 4 anni in Tibet, perché l'altra radio non aveva abbastanza fighe. Maccio dice sempre ci vediamo poi ritorno, e per strada se ne pente come padre Maronno. Non si vede mai dentro gli studi dello zoo, mi sa che non ritorna più padre Marò. Spende Topolino, Juventino come zoo, c'è da tanto prima dello zoo che DJ Spino. Herbert è così magro che a nascondino si nascondeva mettendosi di profilo. Alan Caligiuri c'ha il culo così di fuori, che quando va a cacare non si toglie i pantaloni. Dice resto single, sì ma quante ne ha chiavate. Vive nella villa Pringles perché è piena di patate. Vivo se n'è andato già da un'ora, tanto c'è Pippo Palmieri alla regia che è meglio di Christopher Nolan. Marco non ne fa mai una buona, pagliaccio assassino, Ronald McDonagh. Non mi rompere i coglioni che inizia lo zoo. Dalle 2 alle 4 butto via pure l'iPhone. C'è ma solo gli altri pazzi meglio di YouPorn. Questo è lo zoo. Non mi rompere i coglioni che inizia lo zoo. Dalle 2 alle 4 butto via pure l'iPhone. C'è ma